359. Carne all'imperatrice. Vi è molta ampollosità nel titolo, ma come piatto familiare da colazione può andare. Le dosi qui indicate bastano per 5 persone. Carne magra di manzo nello scannello, grammi 500. Prosciutto grasso e magro, grammi 50. Parmigiano grattato, cucchiaiate colme numero 3, uova numero 2. Se non avete il tritacarne per ridurre in poltiglia tanto la carne che il prosciutto, servitevi del coltello e del mortaio. Uniteci il parmigiano e le uova, condite il composto con sale e pepe, mescolatelo bene e con le mani bagnate fatene una stiacciata alta 2 dita. Ponete al fuoco in una teglia o in un tegame 30 grammi di burro e 2 cucchiaiate d'olio. Quando cominciano a bollire, collocateci la detta stiacciata di carne e sulla medesima spargete uno spicchio d'aglio tagliato a fettine e alcune foglie di ramerino. Fate bollire e quando comincia a prosciugarsi, bagnatela con sugo di pomodoro o conserva sciolta nell'acqua. Mandatela in tavola contornata dalla sua salsa.